PDL siamo stati con voi e siamo qui con voi e saremo anche domani, perché ha ragione Lele, non è detto che questa battaglia sia finita, perché questa battaglia è finita quando li convinceremo su un altro modello di sviluppo, su un modello di sviluppo che non usa i soldi dei cittadini per licenziare, per chiudere fabbriche, che non usa i soldi dei cittadini per fare grandi opere e dare precarietà. Questa lotta, questa vostra lotta è la nostra lotta, perché si decide con la gente, nelle fabbriche con i lavoratori, sul territorio con i cittadini, e si decide con forza, con determinazione, con pacifismo, con responsabilità, con la maturità che voi state insegnando a tutto il paese, quella maturità che Antonio Ferrentino ci chiedeva di mantenere qui in questo presidio fin quando sarà necessario, senza reagire a nessuna provocazione, mantenendo quel container che voi avete portato giù per la strada e per i sentieri di questa valle. Grazie per la lezione che state dando al paese, siamo con voi.